America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. In America ieri i mercati hanno riaperto nonostante ci sia stata un'altra caduta del prezzo del greggio. Ieri a New York è chiuso a $28.46 al barile, meno 3,26%. Le borse anche da questa parte dell'Atlantico si sono un po' più stabilizzate. Staremo a vedere come andrà a finire. C'è stato un dato non esattamente rassicurante in arrivo dalla Cina, con una crescita inferiore al 7% e il dato di crescita minore negli ultimi 25 anni. Però vorrei osservare, qualcuno non riflette sul fatto che è vero che è diminuito il tasso di crescita, però dobbiamo anche considerare qual è la dimensione dell'economia cinese, cioè oggi è enormemente più grande rispetto a quanto non fosse anche soltanto 4-5 anni fa, dunque è inevitabile che poi i tassi di crescita vadano un pochino ad appiattirsi. Ma vorrei partire con alcune notizie sintomatiche di quello che sta capitando in America in questi giorni, notizie molto diverse le une dalle altre. Partiamo con quest'audio di Jada Pinkett, che è un'attrice afroamericana, che è la moglie di Will Smith. The Academy has the right to acknowledge whomever they choose. Ecco, una protesta, una denuncia, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, la comunità afroamericana che lavora a Hollywood è scontenta. Perché? Perché non ci sono stati degli attori nominati sia per i Globe Awards, ma adesso anche per gli Oscar, per dei premi. La protesta è nata con Spike Lee, tra l'altro, è nata l'altro giorno, che ha fatto un post dicendo che lui, il grande regista afroamericano, non sarebbe andato alla cerimonia degli Oscar in segno di protesta. E la moglie di Will Smith, che lo sappiamo, un grandissimo attore, dice: agli Oscar le persone di colore sono benvenute per consegnare le statuette, per presentare, ma i nostri risultati artistici vengono raramente riconosciuti. Dovremmo forse rifiutarci di partecipare, come ha fatto Spike Lee? Dunque sale il termometro della protesta e una polemica di cui vorrei parlare in modo più approfondito nei prossimi giorni, magari parleremo anche degli Oscar, ma è di nuovo una protesta sintomatica di certe tensioni americane. Vediamone un'altra. Wow, hey Iowa! Woo! Hey, are we gonna get this done for Donald Trump? Ecco, non so chi l'ha riconosciuta, ma questa è Sarah Palin, ve lo ricorderete, doveva essere grande sorpresa, grande compagna di corsa alle elezioni con John McCain come vicepresidente, poi non ha funzionato. E naturalmente chi ha deciso di appoggiare Sarah Palin? Beh, naturalmente Donald Trump. Questo endorsement è importante per Trump, per l'Iowa, perché potrebbe dargli quella spinta finale per portarsi in testa e dunque partire molto bene, ma ci dà anche la misura di quanto povera sul piano intellettuale sia la corsa elettorale dei repubblicani. E poi più avanti vi farò ascoltare invece qualcuno che secondo me avrebbe più numeri, però non riesce a farcela, e cioè Jeb Bush. Dunque, prima di parlare di Jeb Bush, vediamo un paio di altre notizie. Questa in arrivo dall'Arabia Saudita. We don't have confidence in Iran. We have confidence in the United States. Denuncia di nuovo in arrivo da Riyadh contro l'Iran, che semina discordia, malcontento, caos nella regione da 40 anni, dalla rivoluzione iraniana del 1979. Ci saranno elezioni fra poco, tra l'altro, in Iran, e saranno elezioni naturalmente importanti. L'Arabia Saudita ha anche detto: non faremo dichiarazioni se o come ci approvvigioneremo di una bomba atomica. Ecco, come si dice, scusatio non petita, nessuno gli aveva fatto la domanda, però lo ha voluto dire lo stesso questo alto funzionario del governo. Come dire, la tensione resta elevata, un messaggio soprattutto all'amministrazione Obama, che in questo momento Riyadh vede un po' come il fumo negli occhi. Infine, altra notizia importante di ieri. The Supreme Court is going to bring this front and center in an election year when the Latino vote is so important. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto una richiesta di 26 stati di bloccare un ordine esecutivo del presidente Barack Obama che avrebbe consentito a 5 milioni di immigrati irregolari di restare negli Stati Uniti. In sostanza, Obama aveva detto: beh, dobbiamo chiudere un occhio sui documenti di questi immigrati irregolari e dobbiamo così essere un pochettino più aperti. Questa decisione naturalmente crea agitazione discussione in seno all'amministrazione e soprattutto in seno ai movimenti per le riforme della legge sull'immigrazione. Perché vi ho parlato di cose che sembrano molto diverse le une dalle altre, arrivando addirittura alla prima di cui vi ho parlato, e cioè alla stabilità della borsa? Perché queste tematiche sono tematiche centrali al dibattito elettorale americano. E ieri pomeriggio sono andato al Council on Foreign Relations, dove ho incontrato Jeb Bush, il Council on Foreign Relations, di cui sono membro, è una delle più importanti organizzazioni, uno dei più importanti think tank americani per la politica estera, sede qui a New York, è uno dei più antichi, dei più vecchi, dei più prestigiosi, e ogni tanto si organizzano questi incontri per i soci. Devo dire che è stato molto interessante vedere Jeb Bush fuori dalla mischia dei comizi elettorali, o peggio ancora dalla mischia dei dibattiti televisivi in cui i candidati, soprattutto a partire da Trump e da Cruz, si tirano i pomodori marci addosso. Ed è emerso un personaggio con una grande visione e con una grande capacità di riflessione, anche intellettuale, che devo dire è quello che sembra mancare. Sentiamolo. The campaign will be a place where this will be discussed from time to time. Man, a girl can dream at least. Ecco, intanto Jeb Bush, anche se doveva parlare di politica estera, non si è risparmiato una battuta contro Trump, dicendo che, insomma, non ci sono delle riflessioni, dei pensieri, delle argomentazioni serie quando ci si confronta nel dibattito. Prevale il soundbite, prevale l'aggressività, prevale l'idea di aumentare addirittura la paura dell'americano medio, tirandogli addosso una serie di preoccupazioni che vanno da quel che sta succedendo in Iran, quel che sta succedendo in Medio Oriente, quel che succede sul fronte dell'immigrazione, quel che succede sul fronte razziale, quel che succede sull'economia, insomma un po' tutti i temi di cui vi ho parlato prima, che vediamo nel giorno per giorno nelle notizie. E dunque Bush si è tolto qualche sassolino attaccando Trump, questo serve a poco perché poi le reazioni del pubblico sono delle reazioni che puntano più sui sound bites, però ecco, vorrei darvi anche un'idea di quello che ha detto, sentiamo. And our country has seen an erosion of economic activity. Allora, come ha articolato il suo intervento Bush? Intanto ha detto dobbiamo essere forti dal punto di vista economico. La priorità è quella di passare da tassi di crescita del 2%, che sono i tassi di crescita che non portano quell'occupazione con dei salari che ti consentono di vedere al di là della fine del mese. Noi abbiamo sì molti occupati, però sono degli occupati che non riescono a pagare i conti, sono degli occupati con dei sottosalari. Per questo, dice anche, abbiamo un tasso di inflazione così basso. Sono delle persone che, se devono fare una riparazione alla macchina da $500 in un anno, non possono farla. Per prima cosa dobbiamo rafforzare la nostra economia, perché se c'è un ordine mondiale che sta cambiando, se dobbiamo recuperare in questo ventunesimo secolo un ordine che ha funzionato molto bene nel secolo precedente, se dobbiamo recuperare quella leadership americana che oggi manca, dobbiamo prima di tutto essere leader forti nell'economia. Basta la crescita del 2%, passiamo a una crescita del 3, del 4, cerchiamo di trovare il modo per rilanciarla. Ma il tema più interessante è appunto quello dell'ordine mondiale. E l'accusa, l'attacco di Jeb Bush a Barack Obama è stato quello di aver fatto un passo indietro. Dice, nel momento in cui l'America fa un passo indietro, purtroppo ci sono altri che sono pronti ad occupare quegli spazi. Il primo è stato Vladimir Putin e la Russia, e il secondo è stato l'Iran, che sta creando il caos in Medio Oriente e che adesso avrà a disposizione, grazie a un accordo al quale, dice, io ero contrario, l'accordo sul nucleare, avrà a disposizione $100 miliardi non per stabilizzare la situazione, ma semmai per renderla ancora più difficile. I mullah, ha detto, non se ne andranno nella notte, come si illude il presidente Barack Obama, semmai potranno rafforzarsi. Ha poi parlato di immigrazione, è favorevole a una riforma dell'immigrazione, ma una riforma dell'immigrazione seria e non improvvisata, dice, come quella che vuol fare il presidente americano. Devo dire, è stato rinfrescante, perché Jeb Bush, che può non sembrare un fulmine di guerra quando lo vediamo in video, magari non buca appunto la telecamera, però è un uomo posato, intelligente, che conosce le tematiche, che vuole usare la diplomazia, che non dice un giorno lavoriamo con la Cina per contenere la Corea e il giorno dopo imponiamo una tariffa del 45% contro la Cina, come ha detto Donald Trump. Per il Partito Repubblicano una possibilità ci sarebbe, vedremo come andranno le primarie e i caucus. sarebbero mille altri approfondimenti. Idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la notizia ormai è di un paio di giorni fa. Glenn Frey, 67 anni, una delle colonne degli Eagles, se n'è andato. E dunque, in suo onore e in onore degli Eagles, una canzone che ha fatto sognare intere generazioni di americani e che continua, devo dire, a farle sognare ancora oggi. Hotel California. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!